figli di un Dio minore. Cronache e storie di impegno sociale. Buon pomeriggio da Valeria De Rosa. Questa settimana vogliamo raccontarvi dei minori stranieri che arrivano o vivono in Italia. I dati sono stati raccolti nel rapporto annuale di Save the Children. Spicca l'aumento costante delle presenze. Negli ultimi 6 anni il numero di minori stranieri residenti è raddoppiato, superando gli 800.000. Quanto ai minori non accompagnati, sono oltre 6.000 quelli segnalati al Comitato Minori Stranieri e molti di loro non hanno un documento di riconoscimento. Ma da dove arrivano questi ragazzi e come vengono accolti? Valentina Furlanetto lo ha chiesto a Valerio Neri, direttore generale di Save the Children Italia. Sotto il nome minore migranti vanno tante cose, tante situazioni umane differenti, tante situazioni giuridiche differenti. Allora, con questo rapporto cerchiamo di mettere ordine in un caos sociologico e giuridico. Poi in particolare però noi ci occupiamo, come Save the Children, dei migranti più a rischio, e questi sono i minori migranti non accompagnati, cioè ragazzi, mediamente adolescenti, che arrivano in Italia spesso in maniera illegale senza nessun adulto di riferimento. Ebbene, questi vengono censiti ufficialmente se arrivano alle frontiere o se, anche entrati illegalmente, vengono poi anche da Save the Children trovati e via via condotti, nel senso dell'accoglienza, verso le strutture giuridiche e legali più corrette. Ora, questo numero, che è di circa 6.000 persone, 6.000 ragazzi nel 2009, in realtà noi sappiamo, proprio stando su strada, che è molto sottostimato e che la valutazione nostra è che sia almeno il doppio sul territorio italiano, cioè ci siano almeno 12.000 ragazzi di questo tipo, adolescenti presenti nel territorio italiano, soltanto metà dei quali entrati in contatto con le strutture d'accoglienza giuridicamente corrette e previste dalla legge. Lei ricordava, sono per lo più adolescenti, ci può chiarire che età hanno, da dove vengono per la maggior parte? Dunque, la maggior parte, è curioso dirlo, ma cambia a secondo del periodo dell'anno e a secondo anche della situazione politica italiana. Faccio un esempio così mi si capisce subito. Fino a poco tempo fa, fino a quest'estate, arrivavano moltissimo con i barconi sulla Sicilia e quindi dall'Africa. Ora, dopo la decisione governativa dei respingimenti, avendo chiuso Lampedusa, non arrivando più facilmente da quella rotta, cambia un po' la componente. Quindi, se prima c'erano molti eritrei, molti somali, molti marocchini, molti egiziani, adesso stanno proporzionalmente aumentando invece, per esempio, gli afghani, ancorché poi rimangono anche egiziani che seguono altre rotte, che seguono altre strade, ma adesso sta molto aumentando il numero dall'est europeo, particolarmente degli afghani che arrivano dopo un viaggio terribile e spesso arrivano passando tramite la Grecia e arrivano o su Bari e Puglia o addirittura Calabria, come uno sbarco di 100 e più persone 3 settimane fa, o arrivano tramite la frontiera di Ancona sotto i camion, sotto i tir imbarcati sulle navi, e spesso è molto difficile intercettarli per aiutarli a rendersi conto qual è la legislazione italiana e entrare nella legalità italiana. Ecco, ad esempio gli afghani sarebbero profughi di guerra, hanno consapevolezza di questo loro status? No, quando arrivano in Italia molto raramente hanno consapevolezza delle leggi italiane e o europee. La loro fonte di informazione sono persone adulte che trovano lungo la strada, sempre afghani. E tra l'altro noi rileviamo un fenomeno del tutto nuovo, le do una novità in assoluto, perché è uno dei fenomeni più nuovi che stiamo riscontrando. Soprattutto qui in Italia e particolarmente a Roma, gli afghani adulti che si sono fermati in Italia dicono ai ragazzi che qui si sta molto male, cioè che l'accoglienza di un ragazzo che ha compiuto 18 anni, che quindi poi si deve integrare in Italia, è molto negativa. Quindi invitano praticamente i ragazzi, consigliano i ragazzi che arrivano a proseguire il viaggio, ad andare più a nord, andare in Danimarca, in Svezia, in Inghilterra, dove, a sentire queste persone, il sistema d'accoglienza statale è di molto migliore. Quindi, al di là di sapere esattamente qual è la loro dolo di diritto legislativo, questi ragazzi seguono un po' le informazioni che raccolgono dai più adulti della loro stessa cultura. Mi inquieta abbastanza il dato che voi avete rilevato e diffuso, quello del 1119 minori fuggiti dai centri di accoglienza tra maggio 2008 e febbraio 2009, che andando a sommarsi ai circa 6.000 minori che lei dice probabilmente sono in Italia ma non sono stati intercettati e quindi non sono censiti, fa circa 7.000 minori in Italia, stranieri, che possono, secondo almeno Maria Rosa Dominici, che è psicologa, giudice onorario al Tribunale Minori di Bologna, possono essere soggetto di traffico, prostituzione, adozioni illegali. Avete sentore che questo esista? Assolutamente, però attenzione, lei ha messo insieme, ha fatto la somma di due dati, però non qualitativamente uguali. Uno è certo, è quello delle fughe, quelli sono dati ufficiali, l'altro è soltanto una stima di nostra, di operatori Save the Children, che può essere anche errata per un 10%, un 15% per eccesso o per difetto. In ogni caso è vero, la sostanza è che il sistema d'accoglienza italiana fa acqua da tutte le parti. Faccio un esempio così mi capite subito. Se io sono un ragazzo di qualsiasi etnia fuori dalla comunità europea, o afgano o somalo, e arrivo in Italia con studi, se li ho fatti, ho fatto studi nella mia lingua, non parlo alcuna lingua, non parlo né italiano né a volte neanche l'inglese. Bene, arrivo e mi trovo messo, se faccio la cosa legale, quindi sono legalmente riconosciuto e portato in una casa d'accoglienza, mi trovo in un gruppo di persone che non parla né inglese né la mia lingua, quindi sono muto e sordo. Nessuno mi dice esattamente che cosa succede in Italia, nessuno mi dice quale sarà il mio futuro in Italia. È ovvio che io dopo un po', mangiato un piatto di minestra, fatto una doccia, passati due o tre giorni tranquillo, scappo, perché non c'è motivo che io mi trattenga in un posto senza che nessuno mi spiega che ci sto a fare in quel posto e qual è il mio vantaggio di rimanere in quel posto. Lei si riferisce ai centri di accoglienza, ovviamente. Esatto, esatto. I centri di accoglienza che hanno dei mediatori culturali, per quanto la legge invece lo preveda, sono minimi, e poi se hanno un mediatore culturale, mettiamo di etnia, mettiamo di cultura afghana, non è detto che lo abbiano per le culture e le lingue africane. Quindi bisognerebbe, come Save the Children ha chiesto migliaia di volte, ormai non so neanche più quante volte l'abbiamo chiesto, di organizzare l'accoglienza in maniera molto più razionale, intanto farla meglio, perché altrimenti sprechiamo risorse. Badate bene che allo Stato questi ragazzi costano molti soldi, perché le rette che lo Stato paga per i centri d'accoglienza e per l'accoglienza sul territorio dei comuni di questi ragazzi spesso sono molto alte, mediamente sono 60 euro. E questo cosa lei meno. Lo segnala perché? Che sono alte. Perché noi spendiamo dei soldi, perché giustamente costano tenere questi ragazzi, ovviamente come chiunque di noi può costare, no? Se abita e studia e vive in un luogo, però questi soldi sono sprecati se poi questo ragazzo scappa e va a delinquere sul territorio o entra nelle maglie del lavoro nero, della prostituzione, eccetera. Sono soldi anche economicamente mal gestiti. Allora una corretta e migliore accoglienza permetterebbe un atto di giustizia nei confronti di questi ragazzi e un atto di maggiore economia da parte del governo e del paese. Il giudice onorario al Tribunale di Minori che le citavo prima parlava appunto di prostituzione, anche lei me lo confermava, adozioni illegali, traffico d'organi, dice non se ne parla perché perdura l'idea di non creare allarme sociale. Lei condivide questa preoccupazione, il fatto che ci sia una zona d'ombra perché se no si procurerebbe allarme sociale? Dunque, io sinceramente di traffico d'organi non ho mai sentito parlare, nessuno dei nostri ragazzi né incontrati nelle unità di strada durante la notte nelle nostre città ha mai rilevato problemi di traffico d'organo, quindi questa cosa noi Save the Children ufficialmente non la conosce, neanche ufficiosamente, mentre prostituzione maschile in questo caso, perché questi minori sono al 90% uomini, ragazzi, e quindi si parla di prostituzione maschile, sì, al 100%, quasi tutti finiscono in un giro di prostituzione maschile, è il modo che hanno di campare sulla strada, molti finiscono in lavoro nero. Ecco, io di quanto ha detto il giudice, due cose non mi tornano, uno il traffico d'organi, neanche l'adozione, perché non è che è così semplice adottare illegalmente un ragazzo di 15 o 16 anni che si trova in Italia appunto illegale non è possibile, non è semplice. Io penso che l'adozione illegale sia per bambini molto più piccoli fatti venire dall'estero appositamente dai trafficanti, ma allora stiamo parlando di tratta, non stiamo parlando di minori migranti non accompagnati, stiamo parlando di un altro aspetto della migrazione perverso, quello della tratta degli esseri umani. Però credo che qui non corrispondano perfettamente le nostre notizie. Voltiamo pagina e parliamo di disabilità. La scrittrice romana Clara Sereni torna ancora una volta a occuparsi di questo che resta un tema delicato e di cui poco si parla. In questa intervista di Alessandra Tedesco, l'autrice parla dell'opera collettiva da lei curata, Amore Caro. Avevo fatto una dozzina d'anni fa un altro piccolo libro che si chiamava Mi riguarda. Anni dopo volevo vedere se la situazione delle persone con disabilità e con difficoltà e dei loro parenti era cambiata e anche se era cambiato il meccanismo di vergogna che spesso impedisce alle persone anche famose di dire di avere un problema così. Ahimè, devo dire che è poco cambiato, anzi forse qualcosa in peggio sia su un versante che sull'altro. Perché c'è ancora vergogna di avere una persona cara, un parente con una disabilità psichica o fisica? Sì, è difficile parlarne, è difficile scriverne anche per persone che magari scrivono di mestiere, però dire in prima persona io continua ad essere difficile, ma proprio perché attorno non c'è quella solidarietà, quella comprensione di cui ci sarebbe gran bisogno per le persone in difficoltà e per tutti gli altri. Come hanno reagito i personaggi famosi che lei ha contattato perché scrivessero appunto una lettera o comunque qualcosa al loro parente disabile? Ci sono state alcune persone a cui non ho neanche potuto chiederlo, ci sono state persone a cui l'ho chiesto che hanno detto di no e poi ci sono invece quelli che hanno aderito. Però diciamo, io ho fatto un lavoro di cura, però normalmente una cura editoriale vuol dire che fai un elenco, lo consegni a una segretaria e finito lì. È chiaro che per un libro così ci vuole proprio la cura in senso molto femminile, perché un po' tutte le persone, chi più chi meno, hanno avuto bisogno di essere aiutate, di essere sostenute, di essere incoraggiate per fare questa cosa. Fra le testimonianze che ha raccolto ce n'è una che l'ha colpita in modo particolare? Davvero devo dire che poi tutte hanno una profonda ragione per, però direi che il brano, la lettera di Pulsatilla a suo padre, intanto ha l'aspetto innovativo che appunto in molti altri casi sono genitori che parlano dei figli, in questo caso è una figlia che parla del padre. E poi devo dire che c'è una tale penna che, se devo esprimere una preferenza che mi dispiace, però ritengo che quello sia il brano più alto, straziante, ma molto alto. Ed è tutto per questa puntata di Figli di un Dio Minore. Grazie per essere stati con noi. Un buon pomeriggio da Valeria De Rosa.